Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Le rituali informazioni di servizio, la nostra mail, unabusoalgiorno@radio24.it. Il mio blog, Guardie o Ladri, lo trovate sulla home page del Sole 24 Ore online. Ed infine vi ricordo che per chi perde o è impossibilitato ad ascoltare questo o anche altre trasmissioni della nostra radio, c'è la possibilità di scaricare tutte le puntate, andando indietro anche nei mesi e anche per argomento, dal sito della radio stesso, che è www.radio24.it. Allora, ricorderete, molti di voi ricorderanno verosimilmente, che prima delle vacanze natalizie, alcune settimane fa, noi abbiamo trattato il caso denunciato da un'associazione per i diritti del cittadino che si chiama Codici, e Codici denunciò il fatto che stavano arrivando molte cartelle esattoriali relative al pagamento di multe o comunque relative al bollo auto non dovute in realtà. Si parlava di decine di migliaia di casi in Abruzzo e centinaia forse di migliaia di casi in tutta Italia. Dopo quella trasmissione sono arrivate moltissime mail, devo dire, di gente che da diverse parti d'Italia ci ha segnalato proprio questo, vale a dire cartelle da parte di Equitalia per tributi del bollo auto non dovuto. Allora noi abbiamo preso uno di questi radioascoltatori ancora in Abruzzo, perché in Abruzzo c'è il cuore di questo misunderstanding, incomprensione, caos, confusione, chiamiamola come vogliamo, che si sta propagando e si è propagata poi in tutta Italia. Allora io do il buongiorno al radioascoltatore che ci ha scritto, Graziano Dinisio di Chieti. Buongiorno Dinisio. Buongiorno dottore. E do il buongiorno a Domenico Pettinari, che è proprio il responsabile dello sportello interterritoriale dell'associazione Codici. Buongiorno Pettinari. Buongiorno. Allora io direi, prima di partire con il caso di Dinisio, riassumiamo meglio di quanto io abbia fatto ciò che è accaduto e ci dica Pettinari quali sono gli aggiornamenti rispetto alla denuncia che voi circa un mese e mezzo fa faceste. Prego Pettinari. Sì, riepilogando, nel 2003 la Soget inviava a centinaia di migliaia di contribuenti italiani e quindi a migliaia di abruzzesi un invito a condonare bolli auto non pagati relativi agli anni d'imposta 93-96. Quindi il contribuente, pagando solo il 25% dell'intero debito, avrebbe definito la pendenza in essere con lo Stato. Quindi se un utente aveva un debito di 100 euro, pagando 25 euro avrebbe messo fine ad ogni ulteriore richiesta. E gli utenti così fanno, aderiscono formalmente a questo condono pagando entro i termini stabiliti. Ora cosa è successo? È successo che a distanza di 6 anni agli stessi contribuenti viene richiesto il pagamento del restante 75% con il semplice invio da parte dell'Agenzia delle Entrate di un complicatissimo provvedimento di diniego che di fatto va ad annullare il condono al quale avevano aderito. Ecco Pettinari, ma rispetto a quella denuncia che voi faceste, al quale tanto il Sole 24 Ore quanto Radio 24 hanno dato seguito, per non parlare poi ovviamente di altri giornali soprattutto locali, penso ad esempio al Centro, al Messaggero con la cronaca abruzzese. Ecco, che cosa è cambiato? Cosa è successo dopo la vostra denuncia? Se mi si consenta, un grande silenzio assordante da parte dei vertici dell'Agenzia delle Entrate di Equitalia, e quindi cioè loro non hanno dato nessun riscontro, nessuna risposta ai nostri solleciti. La nostra era una richiesta ben specifica, era quella di dell'emissione di un provvedimento straordinario da parte del direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, il dottor Attilio Befera, teso ad annullare tutti questi provvedimenti truffaldini, a nostro avviso. Quindi non questi... è stata nessuna risposta. Benissimo, allora per ritornare poi al, come dire, allo specifico di come bisogna comportarsi, partiamo dalla storia di un radioascoltatore, come dicevamo, Dinisio. Dinisio, allora, che cosa è successo a lei a Chieti? Ce lo racconti. Ma a me è arrivata questa raccomandata il 1° dicembre. Sì. Ed è stata un pochettino, diciamo, una sorpresa, perché Equitalia, per conto dell'Agenzia delle Entrate, mi intimava semplicemente di pagare 3.000 euro senza nessun altro tipo di spiegazione, in quanto era comunque una somma da me dovuta nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, pena il fermo amministrativo della vettura dopo 20 giorni se non avessi pagato questo importo. Fermo amministrativo vuol dire che gli avrebbero bloccato le ruote, quindi non sarebbe potuto andare in giro. È una macchina con cui io lavoro quotidianamente, è un autocarro, quindi per me sarebbe un vero e proprio danno. Sì, perché lei di lavoro fa il macellaio, quindi trasporta carni fresche, giusto? Perfetto, sì, esatto. Sì. Ecco, ma lei ha pagato o non ha pagato? Io fino adesso mi sono rifiutato di pagare, sto aspettando veramente che mi arrivi una notifica del fermo amministrativo, in quanto pur avendo fatto opposizione al provvedimento il 21 di dicembre per la precisione, io a tutt'oggi non so niente. Di che, ecco, scusa, lei no? Che cosa aveva condonato pagando quello che all'epoca pagò? Che cosa credeva a questo punto, allora, di aver condonato? Contando sulla collaborazione di mia moglie che mette tutto da parte, siamo dovuti tornare fino al 1996. E quindi praticamente era una tassa di lusso sul fuoristrada, una tassa che poi, andando a vedere ancora più nello specifico, nel mio caso questa macchina io l'avevo venduta nel 95. Ho capito, quindi lei in buona sostanza non avrebbe pagato una parte dei tributi dovuti allo Stato per il suo fuoristrada. Lei condonò questo, ma le è comunque arrivata una cartella con l'intimazione di pagamento, è così? Sì, praticamente. A parte i dettagli, voglio dire, ma questo è il succo del discorso. Allora, Pettinari, che storia è questa? È una storia come le altre, come tantissime migliaia di storie in Italia. Ora, io ho capito perfettamente tecnicamente quello che è accaduto al signore abruzzese, e mi rendo perfettamente conto di quelle che sono le preoccupazioni, perché dal momento che si presenta ricorso avverso il provvedimento alla commissione tributaria competente e non vi è subito una sospensiva dai giudici della commissione tributaria, che significa che i giudici se non sospendono immediatamente, e l'intimazione, il fermo amministrativo ha tutta un'altra strada, quindi procede comunque. Quindi se non ci sarà una sospensiva in questi giorni, scadranno quei 20 giorni del provvedimento di Equitalia, della società di riscossione, potranno porre la ganascia fiscale, quindi il fermo amministrativo, sulla sua automobile. Quindi noi cosa consigliamo? Prego, ecco, esatto, diciamo un po', consigliamo un po' questo radioascoltatore e gli altri che si trovano nella sua stessa condizione. Alle persone che si rivolgono presso i nostri sportelli, e poi stiamo offrendo consulenza un po' a tutta Italia, anche alle altre associazioni, altri uffici legali. Intanto diciamo il vostro sito, così almeno chi vuole lo va a visitare. Qual è, Pettinari? Il nostro sito che è www.codici.org, il nostro centralino che si occupa di questa vicenda è lo 085 77211. Benissimo, allora torniamo al consiglio che lei stava dando. Noi consigliamo, contestualmente al ricorso alla commissione tributaria, di notificare l'atto anche ad Equitalia SPA, perché il ricorso si fa contro il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, però c'è poi la società di riscossione che va a recuperare il credito in maniera coattiva, quindi bisogna notificare l'atto anche alla società di riscossione, che adesso è Equitalia SPA, e diffidare questa società Equitalia a non procedere con il recupero forzoso del credito. Cioè, in poche parole, diciamo ad Equitalia: guarda, io già ho proposto ricorso alla commissione tributaria, per cortesia aspetta la decisione del giudice prima di procedere con il fermo amministrativo sulla mia automobile. Allora, questo è il concetto. Benissimo. Pettinari, all'epoca dicemmo che probabilmente la cosa non era circoscritta all'Abruzzo, come se poi l'Abruzzo già non avesse problemi di altra natura da affrontare, con scandali tra scandali e purtroppo il devastante terremoto. Ecco, ma nel resto d'Italia quanto le risulta la situazione? Qual è? La situazione è gravissima, ci sono circa 1 milione di contribuenti coinvolti sull'intero territorio nazionale, 50.000 contribuenti in Abruzzo, e la situazione è tragica perché non ci sono risposte concrete dall'Agenzia delle Entrate, quindi ci rimane solo il ricorso alla commissione tributaria. Quindi l'Agenzia delle Entrate ha lasciato tutti questi contribuenti in balia di una confusione generale, e abbiamo solo adesso, infatti è questo che voglio fare io a nome di tutti gli italiani, un appello ai gli onorevoli giudici delle commissioni tributarie affinché si, diciamo, si avvicinano il più possibile a questa domanda della collettività proposta dei cittadini, dai cittadini, e possano emettere la sospensiva in tempi brevissimi. Benissimo. Perché lì, se emette una sospensiva, andiamo a proteggere veramente l'utenza da ulteriori aggressioni da parte di Equitalia. Bene Pettinari, la ringrazio per il suo intervento, così come ringrazio il nostro radioascoltatore. In regia grazie a Pietro La Corte, in studio ad Elisabetta Fusconi, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.